Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, in diretta come molti programmi di Radio 24 questa settimana dall'Expo di Milano. Lo ricordo, siamo ospiti di del padiglione Cibus Italia, quindi il padiglione dell'industria alimentare italiana, delle eccellenze dell'industria alimentare italiana. Per chi fosse all'Expo o volesse venire a trovarci nei prossimi giorni, ricordo la posizione sostanzialmente. A parte che si chiama Cibus, ma siamo intorno al padiglione come numero 138-135 per quello che riguarda la posizione qui all'Expo. Di cosa ci occuperemo? Anche di Expo, ma non solo, soprattutto di Made in Italy e di esportazioni, e poi della vicenda che sta coinvolgendo i ministri all'agricoltura dell'Europa, e mi riferisco al tema ancora una volta del latte. Come vi hanno ricordato i nostri GR, sono stati circa 6.000 gli agricoltori con 2.000 trattori in piazza oggi a Bruxelles contro i bassi prezzi del latte, causati soprattutto dall'embargo russo e contro le pratiche sleali adottate dai distributori. Una grossa manifestazione, le restrizioni russe hanno stroncato quello che era il principale mercato di sbocco per i produttori di latte europei, un valore di 5 miliardi e mezzo di euro, e ci sono state anche tensioni con le forze dell'ordine, utilizzo di idranti, un poliziotto ferito. Partecipa chiaramente anche il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina. Ne parleremo, visto che parleremo anche dell'industria del latte italiana qui rappresentata al Cibus Italia. E in apertura, chiaramente, dicevo, lo stato delle nostre esportazioni è anche rifaremo il punto su quanto emerso dal workshop Ambrosetti di Cernobbio, non tanto e non solo l'intervento sabato del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ma anche quello di ieri del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Per quello che riguarda le borse, invece, oggi la giornata è decisamente tranquilla, però tranquilla in senso positivo. Parigi guadagna lo 0,46%, Francoforte lo 0,6%, Milano assolutamente in linea più 0,5%. Per quello che riguarda il rapporto di cambio euro-dollaro, siamo a quota 1,11, quindi assolutamente su livelli della settimana scorsa. Tra i titoli segnaliamo particolarmente bene Ferragamo più 3%, Tod's più 2,30%, Popolare Emilia Romagna più 2,20%, Jux più 2%, Enel più 1,80%, Telecom Italia pure, l'1,60% lo guadagna Fiat Chrysler, l'1% è il rialzo di A2A e di ST Microelectronics, Enel Green Power più 0,80%. Fronte opposto, Atlantia meno 1,20%, Finmeccanica meno 0,80%, Buzzi Unicem meno 0,60%, Mediolanum mezzo punto di percentuale come Terna. E questo per quello che riguarda la borsa. Dicevamo degli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre li raccontiamo attraverso le nostre notizie in breve. Allora, partiamo dall'economia internazionale. Come sempre, la Cina oggi ha corretto il tasso di le previsioni sul tasso di crescita della sua economia, portando dal 7,4% al 7,3%. Obiettivamente è una correzione marginale, più che marginale. Tra l'altro, la cosa interessante è che nel 2014 comunque il PIL cinese è stato di 32 miliardi più basso rispetto alla prima stima, e che comunque l'ufficio di statistica cinese fa notare che questa crescita del 7,3% è la più bassa, a noi sembra una crescita enorme, abnorme, in realtà è la più bassa degli ultimi 24 anni, e viene attribuita questa crescita più bassa soprattutto al rallentamento del settore dell'edilizia in Cina. Ma molti fanno notare che la Cina non poteva immaginare di continuare ad avere un tasso così alto di crescita sia infrastrutturale che dell'edilizia privata, ma anche un indebolimento della domanda interna e una difficoltà nelle esportazioni. Veniamo all'Europa, dove chiaramente, come vi hanno ricordato i nostri GR, il tema dominante resta il tema dei migranti. Si va probabilmente verso un vertice straordinario dei leader europei, sarebbe stato chiesto da Francia e Germania, si dovrebbe svolgere dopo il Consiglio straordinario dei ministri dell'interno il prossimo 14 settembre. Dicevo, questo per quello che riguarda il fronte di politica, tra l'altro avete saputo che saranno 15.600 i richiedenti asilo ricollocati in Italia sui 120.000 previsti nella nuova proposta, a cui si aggiungono i 24.000 del precedente schema di maggio. Quindi il totale per l'Italia è di 39.600 profughi su 160.000. Questa è in anticipazione anche del quotidiano spagnolo El País, che di un piano che costerebbe circa 800 milioni di euro. Il 60% dei 120.000 rifugiati andrà ricollocato, sono presenti in Italia, in Grecia e in Ungheria, e verrà ricollocato in Germania 31.000 persone, in Francia 24.000, in Spagna 14.000, quasi 15.000 persone. Vi è stato un colloquio telefonico tra il Premier Matteo Renzi e la Cancelliera Angela Merkel. Renzi ha elogiato il cambio di segno di passo nell'Unione Europea. La Merkel ha avvertito chi però non ha bisogno di protezione tornerà indietro. Oggi c'era attesa per l'annuncio del piano britannico di accoglienza dei profughi, ma la Germania nel frattempo ha fatto notare che Berlino interverrà con un totale di 6 miliardi di euro a favore della massa di migranti che in questi giorni sta entrando nel paese. Ai 3 miliardi di euro già annunciati per gli stati, per i land e i comuni, se ne aggiungono altri 3 miliardi di programmi federali di assistenza. Passiamo all'Italia. Oggi c'è il dato delle entrate fiscali nei primi 7 mesi del 2015. Le entrate tributarie erariali ammontano a 234.000 milioni, cioè potremmo anche dire 234 miliardi, 1 miliardo e 370 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2014, più 0,6%, e tra l'altro se il confronto lo si fa omogeneo e si vede che e si tiene conto del fatto che quest'anno non c'è stato il gettito dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote della Banca d'Italia. Ricorderete l'anno scorso anche un po' di polemica sulla rivalutazione di quanto valessero le quote delle banche dentro Banca d'Italia e quindi dovesse aumentare poi il gettito fiscale delle banche italiane. E dicevo, se si leva questa componente, l'aumento del gettito fiscale nei primi 7 mesi è stato dell'1,3%. E sempre il Ministero dell'Economia e Finanze commenta positivamente i dati sul gettito IVA nei primi 7 mesi del 2015. Sono cresciute del 2,5% le entrate IVA, 1 miliardo e 500 milioni di euro in più, e ancora in calo invece il gettito registrato dalle importazioni dei paesi fuori dall'Europa. Per quello che riguarda la lotta all'evasione, il Ministero dell'Economia e Finanze fa notare che il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo nei primi 7 mesi è cresciuto comunque dello 0,9%, ossia 43 milioni di euro in più. Poi ci sono anche novità sulla riscossione, nel senso che oggi si è appreso che dopo quanto approvato dal Consiglio dei Ministri della scorsa settimana, che il nuovo meccanismo di remunerazione per Equitalia prevede che l'aggio scenda dal 4,6% all'1% per chi paga subito, quindi immediatamente, e comunque scenda dall'8 al 6% per chi pagherà dopo i 60 giorni previsti. E proprio a queste e ad altre novità sulla riscossione sono dedicati 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche da Radio Dimensione Suono. La firma oggi del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Salvatore Padula. Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto che potenzialmente è destinato ad avere un impatto importante su tutti i cittadini, e purtroppo sono tanti, sono numerosi, che si trovano ad avere a che fare con Equitalia, la società pubblica per la riscossione delle cartelle esattoriali, debiti fiscali, multe non pagate e così via. Vediamo in dettaglio le principali novità che scatteranno quando questo decreto entrerà in vigore. Per prima cosa viene tagliato un costo molto pesante che è a carico dei cittadini. Si tratta dell'aggio, ovvero della percentuale sul valore della cartella, che rappresenta una sorta di compenso per l'attività di riscossione. Questa voce, che oggi pesa per l'8% sulle somme dovute, scenderà al 3% se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della cartella, o al 6% per chi pagherà dopo i 60 giorni. Ci sono altre novità, per esempio sarà più facile effettuare pagamenti a rate anche attraverso la domiciliazione sul conto corrente, e per chi dovesse saltare alcuni pagamenti mensili, cosa che attualmente fa decadere dalla possibilità del pagamento a rate, sarà più facile ottenere un nuovo piano di dilazione. Ecco, la filosofia di tutto però è che dopo le tante polemiche sul passato e sui metodi a volte un po' ruvidi di Equitalia, ora il tentativo è di rendere un po' meno arcigna, un po' meno soffocante l'attività di riscossione delle tasse, delle multe e dei contributi non pagati. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Questi nostri 100 secondi, ancora qualche notizia in breve. Intanto una notizia che diamo volentieri, la segnalazione ci arriva dalla Regione Veneto, è stato attivato infatti il numero, da ieri in realtà, però il numero verde per donare dei fondi, per chi volesse donare dei fondi, per la Riviera del Brenta, quindi colpita dalla tromba d'aria lo scorso luglio. Il numero sarà attivo fino a martedì 15 settembre. E corrisponde al 45500 45500, per meglio dire, e appunto è il numero per raccogliere fondi per ricostruire in particolar modo la Riviera del Brenta, che verranno utilizzati per ricostruire e rimediare i danni della tromba d'aria. E questo è un primo dato. Per quello che riguarda, vedo che molti ci chiedono dell'Expo, adesso vi arriveremo all'Expo. Invece alcuni elementi che hanno conosciuto il fine settimana, al di là diciamo dell'intervento chiaramente molto commentato e illustrato del Presidente del Consiglio, ieri è intervenuto anche il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, e anche Padoan, pur alla luce delle incertezze sull'intensità di questa ripresa, ha confermato il quadro esterno resta favorevole, e inizia ad esserci anche una componente interna, cioè i consumi italiani stanno lentamente ma stanno tornando a crescere. Sentiamo Padoan su questo. Certo, c'è un quadro esterno favorevole, continua, e bisognerà continuare a sfruttarlo perché non durerà in eterno, ma che c'è una forte componente interna, o se volete endogena, che spiega questi numeri, e che di conseguenza secondo me questi numeri dureranno. Fatemi dire tre ragioni per cui io penso che questi numeri dureranno, tre ragioni che segnalano, almeno secondo me, tre meccanismi che sono in atto, che si sono rivelati dietro questi numeri. Primo meccanismo: la ripresa che c'è, lo 0,7 acquisito e quant'altro, è sempre più trainata dalla domanda interna, e cioè dai consumi delle famiglie. Perché le famiglie consumano di più? Innanzitutto, con buona pace del direttore, perché hanno un po' più di reddito e forse gli 80 euro funzionano meno peggio di quanto lui giustamente ci diceva un anno fa. Secondo, perché le famiglie hanno più fiducia e quindi spendono di più i soldi che hanno. E terzo, perché hanno più fiducia perché vedono finalmente concretizzarsi qualcosa che è fondamentale, cioè il lavoro. Chiaramente questo intervento del ministro Padoan, c'è un passaggio che già veniva accettato sulle tasse. Sapete che chi vi parla, anche questo il giornale Sole 24 Ore, ai tempi degli 80 euro, lì c'era anche il riferimento di Padoan, disse che la manovra sulle tasse andava fatta prima sulle imprese e quindi liberando risorse per le imprese per le assunzioni più che sugli 80 euro. Detto questo, ormai questa è storia. Chi vi parla non più tardi della settimana scorsa sosteneva che, pur avendo ragione il Presidente del Consiglio a arrabbiarsi con l'Europa quando ci dice cosa fare, una manovra migliore sarebbe stata la riduzione di IRPEF e IRAP prima di arrivare all'IMU e alla TASI, perché vai a alleggerire le tasse su chi lavora o chi produce e assume, non la parte che riguarda la tassa sulla casa, come se uno dovesse scegliere. Di questo però ha parlato anche il Ministro Padoan ieri, perché attenzione, non aggrediremo e non ridurremo solo le tasse sulla casa, ma anche sono previsti altri tagli anche a favore della competitività delle imprese. C'è una strategia di riduzione delle tasse che comincia nel 2014 e finisce nel 2018. All'interno di questa strategia diverse tipologie di tassazione saranno aggredite nel senso della loro riduzione. Sarebbe strano se in questa strategia non ci fosse anche l'eliminazione della tassa sulla prima casa, che, non dimentichiamolo, riguarda circa l'80% dei cittadini italiani. Voi sapete bene, e io lo so perché in altri tempi l'ho anche citato, che l'idea consolidata è che, a parità di altre condizioni, abbattere una tassa sul lavoro, per esempio, è più efficace in termini di PIL e magari di occupazione che abbattere la tassa sulla casa. Fin qui siamo tutti d'accordo, ma dico due cose. Uno, bisogna mettere questo in un contesto, perché non è solo la tassa sulla casa che viene aggredita. In passato e in questa legge di stabilità, non vi dico di più, ma sicuramente non si potrà dire che in questa legge di stabilità taglieremo solo le tasse sulla casa. Stiamo pensando, nell'ambito dei vincoli disponibili, di estendere ulteriore abbattimento di tassazione a favore della competitività delle imprese. E su questo oggi è intervenuto anche il Presidente di Confindustria, Squinzi, che ha definito positivo, un fatto positivo, l'ipotesi di sgravi alle imprese già nella legge di stabilità. Era quanto avete appena ascoltato, faceva e ha fatto intravedere ieri il Ministro Padoan. È positivo, è chiaro che io sono d'accordo con quelli che pensano che è meglio ridurre le tasse sulle imprese piuttosto che ridurre le tasse sulle case, IMU, TASI, eccetera, insomma, quindi è un'idea condivisibile. E partiamo da qui, dalla manovra, ma soprattutto da come stanno andando le nostre imprese, per il primo tema di questa puntata. Intanto siamo tornati all'Expo, facemmo la prima settimana di Radio 24 proprio a luglio, siamo tornati all'Expo, ma intanto con meno caldo, e non era difficile perché qua a luglio si schiattava, ma con un Expo che anche oggi, i dati sono della settimana scorsa, continua a fare dei numeri da record, basta muoversi per i padiglioni. È lunedì, dovrebbe un lunedì, diciamo, lavorativo, non è più festivo, eppure ci sono code interminabili, lo dico, davanti a quasi tutti i padiglioni. Il 5 settembre l'Expo ha segnato il nuovo record di visitatori in una giornata, 200.919 accessi, per cui praticamente nell'ultima settimana sono entrate 914.000 persone. Tra l'altro, facendo notare che il numero di accrediti personali di servizio, ospiti, giornalieri di vari eventi è contemplato anche in questi numeri. Ma ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente dell'ICE, Riccardo Monti. L'ICE, per chi non lo sapesse, è l'Istituto per il Commercio con l'Estero, è rinata, noi la chiamiamo l'Araba Fenice, nel senso che è rinata dalle ceneri della vecchia ICE, che non è che funzionasse sempre così bene. Monti, buonasera. Buonasera a voi. Allora, prima che me lo chiediate, nessuna parentela con l'ex Presidente del Consiglio, così chiudiamo subito la prima domanda che sarebbe arrivata. Allora, Presidente Monti, grazie anche all'Expo, voi siete in grado in questo momento di avere un monitoraggio anche sul territorio italiano di quello che è l'attenzione verso i prodotti italiani. Noi abbiamo visto un rallentamento comunque generale dell'export, ahimè, nel mese di giugno, anche se giugno ha fatto un più 9,5% rispetto all'anno scorso, e il surplus commerciale di quasi 3 miliardi, un po' in calo rispetto all'anno prima. Dove state notando i segnali di maggior rallentamento e che cosa sta facendo l'ICE, utilizzando anche l'Expo come grande vetrina? Voglio dire, praticamente tutti i capi di Stato e ministri sono passati o passeranno e hanno incontri bilaterali anche con lei proprio qui all'Expo di Milano. Monti. Beh sì, giugno diciamo ha visto conclamarsi in qualche modo, ulteriormente rafforzarsi il forte rallentamento russo e quello cinese. Quindi diciamo questi due dati puntuali ci hanno, oltre al Brasile, ci hanno un poco penalizzato. Per fortuna l'America sta andando forte, l'Inghilterra sta andando forte, anche diversi dei paesi medio orientali stanno andando piuttosto bene. Quindi comunque questo 2015 è molto molto ben incanalato. Noi riteniamo di poter fare a livello aggregato a valore un più 5%, che vuol dire una cifra comunque molto importante come, come crescita. Per quanto riguarda il ruolo dell'Expo, c'è un dato che è poco noto, ma l'Expo è anche un grande volano di incontri tipo professionale, quindi noi stiamo organizzando decine di migliaia di incontri cosiddetti business to business. Solamente del programma diciamo formale codificato abbiamo portato 14 delegazioni da 30 paesi e abbiamo generato oltre 15.000 incontri di lavoro. Quindi diciamo in realtà c'è una componente business to business poco nota ma molto importante in questi dati molto positivi dell'export. Sì, è vero, perché noi parliamo sempre dell'Expo giustamente per il numero di visitatori, per i padiglioni, se ha declinato bene o male i temi dello sviluppo sostenibile, del to feed the planet, dell'alimentare il pianeta e quant'altro, però c'è tutta un'attività che sfugge, parallela, che viene fatta più nelle sale per gli incontri business to business che ogni padiglione ha, che è quella che lei ricordava, delle delegazioni, degli accordi commerciali e anche semplicemente di prendere, dell'incontrarsi prima ancora di stipulare un accordo, Monti. Non solo nei padiglioni di Expo, ma in realtà queste delegazioni, nella grandissima maggioranza dei casi, sono andate anche in giro per l'Italia a incontrare operatori a seconda degli interessi che avevano manifestato nelle settimane precedenti. Quindi sono stati incontri pianificati non solo ad Expo, non solo incontri one to one con operatori, controparti a Expo, ma anche dei seguiti operativi in giro per l'Italia nei vari distretti. Ecco, da questo punto di vista gli sviluppi più forti che avete, adesso non stiamo ancora facendo il bilancio finale dell'Expo, lo faremo a metà ottobre con un viaggio di Radio 24, ma sarà un bilancio più sull'Expo per il pubblico. Io vorrei iniziare con lei a fare un primo parziale bilancio invece dell'Expo per gli operatori, quindi il business to business. L'interesse maggiore che avete registrato, Monti, e su cui lavorerete, perché in questi casi è fondamentale il cosiddetto follow up, cioè che cosa fai dopo il primo incontro, la ricaduta che riesci a generare da una manifestazione del genere. Ma decisamente l'area di maggiore interesse, oltre alle filiere diciamo prodotto, abbiamo avuto sulle tecnologie per l'agroalimentare, specialmente anche con delle sorprese positive da paesi emergenti. Cioè quello che sta avvenendo è che paesi anche molto diciamo poveri, che non avrebbero in passato neanche pensato di creare una propria industria agroalimentare di trasformazione, lo stanno facendo, e in questo settore l'industria italiana, tutta l'industria che va dal processamento di primo livello, quindi macchinari agricoli, al packaging agroalimentare più sofisticato, che è una leadership mondiale, sta assolutamente riscontrando un grandissimo interesse agli operatori, che spesso rimangono a bocca aperta a vedere le tecnologie italiane in questi settori. Parliamo anche di macchinari per l'allattamento dei bovini, cioè c'è una filiera straordinaria di eccellenza italiana in questi settori. Devo dire che noi siamo ospite al padiglione del Cibus, e dentro il padiglione del Cibus, al di là delle eccellenze dei consorzi italiani del formaggio, del riso piuttosto che della pasta, le denominazioni d'origine, c'è tutta anche una parte dedicata proprio all'industria alimentare, quindi il packaging, come le ricordava, la lavorazione, e che è un'industria di eccellenza. Io continuo a dire, si può coniugare l'approccio industriale con la qualità del prodotto, se no noi non abbiamo un futuro in termini di numeri e di valore aggiunto se continuiamo a fare solo la nicchia. Monti, resti con noi, perché al di là poi dell'Expo volevo chiudere con lei sull'attività dell'ICE, sui prossimi passaggi. Abbiamo avuto il vice ministro Calenda due settimane fa che raccontava di alcune missioni già organizzate, però vorrei capire dove vi state muovendo anche per il dopo Expo come aree geografiche. Dopo il metodo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. 7:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal padiglione Cibu 6 Italia dell'Expo di Milano. A chi all'Expo distribuiamo anche i cappelli per proteggersi dal sole. Se adesso non è che posso fare però le informazioni di servizio, chiedo, dico agli ascoltatori che scrivono durante Focus Economia. Presidente dell'ICE Riccardo Monti, al di là di tutto quello che si è generato, lei lo raccontava seppur in maniera sintetica dentro l'Expo, le delegazioni che hanno visitato l'Expo e anche altre parti del paese, l'ICE nella sua nuova veste dove si sta orientando per i prossimi mesi? Beh, allora dobbiamo separare il programma di missioni, che è un programma intensissimo. Sono tornato l'altro ieri dal Congo e Mozambico, ci ha messo il ministro Calenda, sarò in settimana prossima in Algeria e Marocco il ministro Guidi, andremo poi in Stati Uniti, insomma c'è un programma di intensissime missioni. Stiamo invece focalizzando su alcune nuove geografie, le nuove aperture di uffici. Questa è una cosa molto interessante. L'Italia è tradizionalmente poco presente in Africa subsahariana. Abbiamo aperto in meno di 2 anni ben 5 uffici nuovi. Abbiamo aperto in Mozambico, in Angola, in Etiopia, in Congo, abbiamo anche in Ghana. Quindi vuol dire sono geografie assolutamente importanti, anche perché magari mentre in Germania o anche in Cile o in Vietnam, oltre all'ufficio ICE si può appoggiare ad altre strutture, entità professionisti, in questi paesi veramente la nostra presenza è vitale per fare un primo lavoro di apertura nel mercato. Stiamo anche potenziando molto la presenza nel sud-est asiatico, che è un'altra area dove l'Italia è sottorappresentata, e nell'area che si chiama Alleanza del Pacifico, quindi il Sud America Pacifico, quindi Messico, Cile, Perù e Colombia, che sono le aree ad alto tasso di sviluppo. Ecco, ma per curiosità, l'ufficio dell'ICE nell'Africa subsahariana, nel sud-est asiatico, che cosa fa esattamente rispetto ai vecchi uffici dell'ICE, che alcune volte funzionavano bene, altre volte invece ci scrivevano e gli imprenditori funzionavano malissimo, per non dire che erano del tutto inutili? Beh, diciamo che noi abbiamo due grandi filoni di attività. Uno è il cosiddetto piano promozionale, quindi quello che noi facciamo all'interno dei finanziamenti che ci dà il governo, e che in primis si tratta di fare missioni, fiere, seminari formativi e accompagnamento a delegazioni. E poi c'è invece un lavoro di assistenza individuale in questi nuovi mercati, è particolarmente rilevante. Quindi la singola azienda si deve affacciare in questo mercato, chiama l'ufficio dell'ICE e comincia a chiedere un supporto informativo generico per orientarsi, aspetti regolatori, e poi ci chiede di organizzare incontri o istituzionali con controparte istituzionali in settori diciamo fortemente regolati, o con controparti di business, quindi importatori, partner di joint venture, distributori. Quindi questo lavoro è sempre più importante, perché la nostra capacità di servizio deve salire come livello di valore aggiunto e deve riuscire a fare delle progettualità individuali per l'azienda. Allora, io la ringrazio e speriamo appunto che questa attività continui, perché poi ci sono le grandi missioni, quelle più che assurgono anche la notorietà della stampa, però poi il lavoro è un lavoro che gli americani chiamano di fine tuning, di piccola messa a punto delle cose, quindi un lavoro poi più silenzioso di presenza e di aiuto delle imprese italiane lì, oltre che del mettere in contatto le imprese locali con quelle italiane. Grazie al presidente dell'ICE Riccardo Monti. Oh, vedo insomma parte una marea di messaggi sull'Expo, la maggior parte di quelli che vanno all'Expo lo fanno per mangiare. Ah, io non so perché vengono all'Expo. Dopodiché un Expo sul cibo, immagino che uno venga anche per mangiare. Ma ce n'è uno che mi fa impazzire: l'Expo è una schifezza, 2 ore di fila per alcuni padiglioni. Ma scusate, allora, se non ci fossero state le code avremmo detto che l'Expo era un fallimento, se ci sono le code diciamo che l'Expo è una schifezza perché ci sono le code. Mi viene un'espressione, ma è un po', non posso usarla perché... Andiamo invece sulla borsa, giornata inizio settimana assolutamente calmo e tranquillo per quello che riguarda Milano, il rialzo finale dello 0,70%, come Francoforte più 0,60%, Parigi più 0,60% anch'essa, euro su dollaro ricordavamo quota 1,11, i titoli Ferragamo più 4%, Popolare Emilia Romagna più 2,5, Iux più 2,30, Telecom Italia più 2,30 anch'essa, Todds più 2,20 e poi Fiat Chrysler più 1,80, Enel più 1,70, A2A 1,5% percentuale di rialzo, ST Microelectronics 1,40, Exor l'1%, come Campari e Unicredit. Chi perde, ma oggi veramente poco, Atlantia meno 1%, Finmeccanica meno 0,60, Buzzi Unice meno 0,30, Terna meno 0,20%. Commentiamo come sempre i mercati con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Mi chiede di Wall Street. Wall Street oggi è chiusa, è il Labor Day in America, quindi non c'è il cosiddetto faro o riferimento di Wall Street. Prima il traffico però. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta dall'Expo di Milano con Sebastiano Barisoni. Allora, Eleonora Micheli, buonasera innanzitutto. Buonasera. Dicevo, non ho una giornata indimenticabile oggi, ma nel senso anche positivo, le borse in leggero rialzo, racchiusa Wall Street. Andiamo sui singoli titoli. Abbiamo visto molta attenzione oggi per Telecom Italia, rialzo alla fine del 2,30%. Sì, Telecom Italia rimane sotto i riflettori, soprattutto dopo che nel fine settimana da Cernobbio il numero uno di Vivendi, il primo socio di Telecom Italia con una quota del 14,9% dell'azienda, ha aperto la possibilità che lo stesso gruppo francese Vivendi possa aumentare la presa nel capitale azionario di Telecom Italia. Inoltre Recchi, il presidente di Telecom, ha detto che potrebbe essere siglato un accordo sul fronte dei contenuti con la stessa Vivendi. E sempre da Cernobbio anche l'amministratore delegato di Enel Staraci ha detto che vanno avanti i colloqui tra Enel e Telecom sul fronte della banda larga e che anzi entro fine mese potrebbero essere prese delle decisioni o comunque sarà terminata l'analisi. Quindi tutta una serie di fattori che ovviamente hanno spinto al rialzo le azioni. Certo. Invece sempre nel mondo delle telecomunicazioni media, oggi abbiamo visto un po' in difficoltà Mediaset, alla fine chiude invariata, tra i titoli in evidenza soprattutto Ferragamo più 4%, in realtà il lusso sta un po' sulle montagne russe. Sì, esatto. Per quanto riguarda Mediaset, sì, fino a poco prima della chiusura era anche negativa. In questo caso è sempre stato De Puy Fontaine, il numero uno di Vivendi, diciamo, a incoraggiare qualche ordine in vendita, perché ha chiuso la porta alla possibilità di un accordo tra Mediaset e Vivendi, ha detto non è in agenda. Sì, il lusso, come hai detto tu, va sulle montagne russe. Oggi, nonostante sia stato rivisto al ribasso il dato sul PIL cinese, le azioni del lusso sono andate bene, in particolar modo Ferragamo più 4%. D'altra parte ricordiamo che per gli analisti si tratta più che altro di un rimbalzo tecnico, alla luce del fatto che più o meno dal 6 d'agosto a venerdì scorso, 4 settembre, quindi in un mese, i titoli hanno perso oltre il 25%. Sì, andiamo avanti. Marchionne oggi, da Monza, ha detto General Motors è il partner ideale per noi, l'ha detto ieri chiaramente, noi rappresentiamo un'alternativa non facilmente replicabile, quindi Marchionne da tutta la settimana scorsa che insiste sul fatto che l'operazione Fiat Chrysler con General Motors sarebbe un'operazione assolutamente ragionevole, di buon senso e l'unica praticabile. Non vi sarebbero posti di lavoro a rischio con la fusione, con l'eventuale fusione con General Motors, l'effetto sarebbe pari a zero sulle infrastrutture produttive della società. Il titolo Fiat ha chiuso con un progresso del più 1,8%, è andato bene per tutta la seduta, ma comunque rimane sotto i riflettori perché ormai è da un po' che Marchionne ribadisce l'eventualità che avvenga una fusione tra FCA e General Motors, e quindi ovviamente alla luce dell'opportunità di un'operazione speculativa il mercato sta alla finestra e scommette comunque che qualcosa possa avvenire. Ancora per quello che riguarda invece altri titoli oggi, Enel, devo dire da Cernobbio già starà, c'era anche il nostro ospite, ha parlato di possibili sorprese positive sui dividendi. Eh sì, infatti Enel alla fine ha chiuso più 1,7, era riuscita a fare anche meglio nel corso della seduta, si è messa in evidenza sin dalle prime battute proprio sul fatto che Strach ha detto che ci potrebbero essere sorprese positive sui dividendi. Nel piano industriale il gruppo ha già indicato che la cedola sarà attorno a 0,16 euro per quest'anno e 0,18 euro per l'anno 21, ma chissà che a questo punto non sia rivista al rialzo. Inoltre il manager ha confermato anche tutti gli obiettivi di Enel per fine anno, quindi tutte notizie un po' positive che hanno riacceso i riflettori. Allora, ultimo titolo che vorrei commentare con te, Atlantia, perché qui parliamo del titolo che si è mosso peggio, ripeto, nulla di grave oggi, meno 1%. Atlantia però, che è l'ex società Autostrade per l'Italia. In questo caso è stato il Sunday Times, diciamo, a scatenare un po' di ordini in vendita, perché il Sunday Times ha scritto che la società starebbe valutando di comprare il London City Airport, che è stato messo in vendita. Evidentemente il mercato ci crede e valuta che tuttavia sarebbe un'operazione costosa per l'azienda e quindi l'ha punita, diciamo, con questa performance in controtendenza con il mercato. Allora, migliori e peggiori in assoluto, da questo punto di vista mi chiedete di altri. I bancari oggi sono mossi molto poco, no Eleonora? Insomma, la Popolare Emilia Romagna più 2,5%, ma Unicredit più 1%, la Pop Milano più 0,80%. Non è stata una giornata di grandi movimenti sul settore bancario. Grazie intanto Eleonora Micheli, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Migliori e peggiori, Digital Brothers più 12%, poca roba, Eukedos più 7,20%, la Juventus più 5,5%, il fronte opposto invece DigiTouch meno 8%, Innovatech meno 7%, Sol meno 3,90%. Adesso parliamo del settore alimentare, visto che siamo all'Expo, ma partiamo dalla cronaca vera e propria. Che cosa è successo? È successo che a Bruxelles oggi si sono registrate anche tensioni con la polizia, uso di idranti, prima del vertice straordinario dei ministri dell'agricoltura. Le tensioni e le manifestazioni erano ad opera di circa 6.000 agricoltori e 2.000 trattori che protestavano contro i prezzi bassi del latte. Allora, quello che sta capitando è che a causa dell'embargo russo, il mercato russo era il primo mercato di sbocco dei prodotti lattiero-caseari, il prezzo del latte è crollato. Vale anche per le carni suine, l'ortofrutta e le carni bovine. Praticamente era un mercato che valeva 5 miliardi e mezzo di euro e il presidente, diciamo, del COPA, cioè che rappresentano gli agricoltori in Europa, ha detto, si chiama Bertrand Matt, ha detto: attenzione, da un giorno all'altro si è spento un mercato a 5 miliardi e mezzo perché dobbiamo pagare solo gli agricoltori devono pagare le sanzioni con la Russia. Tra l'altro su questo abbiamo raggiunto visto che poi è arrivato il nostro ministro Martina, che attendiamo decisioni europee importanti e un budget straordinario contro quello che sta capitando, a favore di quello che sta capitando all'agricoltura lattiero-casearea. E arriveremo anche alle richieste fatte da Agriinsieme, però ascoltiamo intanto l'ex ministro dell'agricoltura italiano, europarlamentare della Commissione Agricoltura, Paolo De Castro, al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Noi come Commissione Agricoltura abbiamo messo insieme una serie di elementi, naturalmente lo stesso stanno facendo i ministri dell'agricoltura e quindi noi ci auguriamo che la Commissione, il commissario Hogan, questa volta anche sotto la pressione di questa manifestazione metta in atto qualche iniziativa concreta. Le misure sono di carattere congiunturale, quello che chiediamo è il prezzo di intervento immediatamente sul latte, chiediamo di aprire lo stoccaggio privato ai formaggi, dare degli aiuti ai produttori di formaggio che quando i prezzi sono troppo bassi di non vendere, di stoccarlo, di conservarlo con un contributo allo stoccaggio dell'Unione Europea. Questa è una misura molto utile per l'Italia, che più del 70% della produzione di latte va in formaggi. E poi ovviamente anticipo sui premi PAC e altre misure congiunturali. Come Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, a queste misure congiunturali noi chiediamo di aprire un dibattito sulla gestione delle crisi in generale, sulla necessità di rivedere gli strumenti di gestione della crisi, perché non abbiamo strumenti operativi che scattano automaticamente in tutte le condizioni di difficoltà, per cui in queste situazioni non possiamo reagire sempre esclusivamente spot. Vogliamo che siano inseriti nella struttura della politica agricola comune degli strumenti di gestione della crisi che siano efficaci proprio quando queste crolli di prezzi oramai sempre più repentini e sempre più frequenti. Allora, ci ha raggiunto in collegamento il presidente Confagricoltura Mario Guidi. Buonasera presidente, però abbiamo adesso il GR24, ancora un attimo di pazienza, andiamo al GR24 e poi cerchiamo di capire appunto misure strutturali per il settore più colpito dall'embargo delle sanzioni russe in assoluto, quello dell'agroalimentare. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30, solo su Radio 24. Questo non credo. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dagli studi di Radio 24 all'Expo di Milano all'interno del padiglione Cibusè Italia. Ripeto, siamo in zona, continuate a chiedere, cioè verso diciamo i padiglioni sostanzialmente 82, 81, 80. Insomma. Questa è la nostra posizione, ma quanto mai significativo che proprio da questa postazione parliamo del tema dell'agricoltura italiana, del latte. Già ricordavo, abbiamo sentito le parole dell'ex ministro De Castro sulla manifestazione di Bruxelles, che al di là degli scontri oggi tra agricoltori, produttori di latte e polizia, ha visto il vertice straordinario dei ministri all'agricoltura dell'Unione Europea. C'è una richiesta forte che arriva dagli agricoltori, ripeto, 5 miliardi e mezzo valeva il mercato di sbocco per il latte e i prodotti caseari russo per tutti i produttori europei, è scomparso. Allora, da un lato abbiamo chi chiede, come la Coppa Cogeca, che appunto sono gli agricoltori, la maggior parte degli agricoltori europei, di riavere indietro i soldi delle multe, non di ridarli a chi li ha pagati perché aveva sforato le quote latte, ma di darli alle associazioni in modo da poter utilizzarli per dare sollievo al mercato. Nel caso specifico Agriinsieme, che unisce la CIA, Conf Cooperative, la Conf Agricoltura, Copacri e Lega Coop, hanno chiesto di riavere indietro circa 75 milioni di euro, che sono i soldi delle multe per lo sforamento delle quote latte italiane nel periodo 2014-2015. Riaverli indietro perché 15-16 milioni servirebbero per acquistare, pensate, 40.000 forme di formaggio per dare sollievo al mercato. Siamo in collegamento, dicevo, con il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E adesso arriviamo a questo. C'è un'altra manifestazione nel frattempo che si è tenuta oggi al Valico del Brennero, l'ha organizzata la Coldiretti, perché chiedendo che venga che vi sia l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti. Le merci trovate nei camion fermati al presidio della Coldiretti al Brennero sono l'esempio di prodotti, hanno detto, che arrivano in Italia senza indicazione della provenienza e che poi diventano magicamente prodotti agroalimentari italiani. Sempre la Coldiretti, in un dossier, fa notare che dall'inizio della crisi ad oggi in Italia hanno chiuso, e qui torniamo a parlare di latte, 172.000 stalle e fattorie, oltre 60 al giorno, dicono, con una previsione apocalittica, ma insomma che ci sono oggi meno di 750.000 aziende agricole sopravvissute. In 33 anni a questo ritmo non ci sarà più agricoltura lungo la penisola. Mi sembra un po' allarmistico. Comunque, sulla denominazione di origine dei prodotti sentiamo il vicepresidente della Coldiretti, Ettore Prandini, al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Noi siamo con migliaia di persone sul valico del Brennero e stiamo ovviamente bloccando quelli che sono i camion, aprendo i camion e dimostrando ai cittadini consumatori quello che viene importato, quello che viene già in tanti casi, scusa il gioco di parole, ma importato e confezionato come agroalimentare italiano, ma che appunto con l'agroalimentare italiano. Ah, quindi state bloccando proprio i camion? Sì, vengono fermati i camion, vengono aperti i camion e poi ovviamente dopo aver fatto il controllo sull'importazione dei prodotti è chiaro che questo ovviamente viene dato la possibilità di procedere in quello che è il loro percorso. Ma quanti siete in tutto? Siamo circa 2000 persone, andrà avanti per tutta la giornata la manifestazione e poi continuerà anche domani. Allora, Presidente Guidi, il doppio fronte, iniziamo da quello europeo. Se ho ben capito, voi con le associazioni europee degli allevatori produttori di latte chiedete la restituzione delle multe non per ridarle a chi ha sforato, ma per diciamo usarle come ammortizzatore, per esempio nel caso dell'acquisto delle forme di formaggio. Sì, questa è una proposta tecnica che abbiamo avanzato al Ministro Martina e che abbiamo avanzato durante la manifestazione ai rappresentanti della Commissione Europea. In verità oggi si è svolta una manifestazione che riguardava la segnalazione delle problematiche che ci sono su diversi settori. Io direi che è un po' tutta l'agricoltura che è sotto scacco in questi mesi, ma in particolare sicuramente il settore del latte, quello della carne bovina e suina e anche quello dell'ortofrutta. Quindi la manifestazione fatta da tutti i paesi europei a Bruxelles si arriva proprio a segnalare lo stato di crisi che questi settori stanno attraversando. In particolare abbiamo chiesto delle misure urgenti per il latte, che è un po' la prima industria agroalimentare italiana, in maniera tale che possano arrivare risorse nel più breve tempo possibile per alleviare un po' la crisi di mercato che c'è. La proposta è, come hai ben detto, quella di utilizzare una parte delle multe che sono state comminate agli agricoltori che hanno superato la quota nell'ultimo anno in cui esistevano le quote latte per togliere dal mercato e quindi darle agli indigenti una quantità rilevante di forme di formaggio che quindi alleggerirebbero il mercato circa 15 milioni di euro sui 70 complessivi stimati. Ecco, per inciso, molti ascoltatori però ci fanno notare una cosa strana: ma se il prezzo del latte è così in difficoltà ed è così depresso e c'è una sovrapproduzione perché si è fermato uno dei mercati più importanti, il primo mercato di sbocco a livello europeo, quello russo, perché non notiamo un calo dei prezzi negli scaffali? Ricordo un po' il tema del petrolio e della benzina, Guidi. Questa è una bella domanda, riporta esattamente alla seconda tipologia, che di alimentare non ha niente, proprio niente. Noi pensiamo che il consumatore sarebbe disponibile a mantenere una capacità produttiva italiana di pagare un prezzo adeguato. Oggi siamo sui 34-35 centesimi prezzo latte italiano, che è sicuramente un prezzo più alto anche rispetto agli altri paesi europei, ma che è la diretta conseguenza dei costi di produzione delle aziende italiane, che sono più alte rispetto a tutto il resto dell'Europa. Per questo il tavolo che abbiamo avviato con il Ministro Martina nei giorni scorsi nei confronti con l'industria di trasformazione è un tavolo fondamentale per capire se veramente c'è un interesse da parte dell'industria italiana a mantenere una capacità produttiva del latte italiano per poi fare i formaggi italiani che sono così apprezzati nel mondo. E adesso ne parleremo, anzi ne abbiamo parlato con due dei principali produttori di latte e formaggi, Sterilguard, che sono qui presenti al padiglione anche del Cibus, perché continua il nostro viaggio nell'industria poi agroalimentare italiana. Un'ultima domanda però al Presidente di Confagricoltura: l'iniziativa della Coldiretti, al di là dell'iniziativa in sé, pone il tema di un controllo più forte e più stringente della provenienza, dell'origine di quello che poi viene marchiato e utilizzato per il Made in Italy? Ma questo sicuramente sì, è un tema, quello in particolare della contraffazione, che anche noi domani l'agricoltura fa un grande evento proprio lì all'Expo, sì, per rilanciare il messaggio che di contraffazione il paese può anche morire, di prodotti copiati, di prodotti contraffatti che tra l'altro fanno male in molti casi alla salute del consumatore. Certo è che noi siamo in Europa e noi abbiamo bisogno degli alleati tedeschi, spagnoli e francesi, perché non dimentichiamo che anche noi siamo un paese esportatore, anzi vorremmo essere ancora di più. Ci vuole quindi equilibrio nel rapporto con gli altri paesi. Quello che noi chiediamo è che sicuramente ci sia la possibilità anche per i prodotti italiani, o soprattutto per i prodotti italiani che hanno fatto una scelta di qualità, di fregiarsi della qualità italiana, ecco, cosa che spesso ci viene negata da parte della comunità europea. Una comunità europea, faccio quest'ultima battuta, che oggi sembra aver accolto le istanze degli agricoltori che hanno manifestato a Bruxelles, perché nelle comunicati stampa vedo che si esulta per questi 500 sì. milioni di euro che sarebbero stati messi a disposizione. Io voglio solo far notare che 500 milioni di euro rappresentano lo 0,1% del valore della produzione agricola europea. Quindi un aiuto di 500 milioni di euro significa aiutare dello 0,1% gli agricoltori europei. E quindi è una misura largamente insufficiente rispetto a quello che è una problematica di un settore. Se poi ci concentriamo sul latte, saliamo allo 0,4, ma mi pare una misura del tutto insufficiente per aiutare, se lo si vuole fare, l'agricoltura italiana e quella europea nel suo complesso. Allora, ha fatto bene a ricordare anche l'evento di domani qui all'Expo, il tema della contraffazione organizzata assieme alla Fondazione Open. Grazie al presidente di Confagricoltura Mario Guidi. Il traffico, e poi parliamo con chi il latte lo fa o lo utilizza per produrre formaggi. Focus Economia. Dicevamo del settore lattiero-caseario, uno dei settori di punta della nostra agroindustria. Ne abbiamo parlato da una parte con Silvia Sarzi, che è direttrice di Sterilgarda. Sterilgarda è il terzo produttore italiano di latte dopo Granarolo e Parmalat, 350 milioni di euro di giro d'affari e 600 milioni di pezzi prodotti all'anno tra latte e derivati. Dall'altra, nostro ospite negli studi Radio 24 qui all'Expo, Roberto Brazzale, presidente del gruppo Brazzale. Dovrebbe essere l'azienda casearia più antica d'Italia, se non ricordo male. Opera nel settore caseario dal 700, ha 6 impianti produttivi in Cina, Italia, Brasile, Repubblica Ceca, 600 dipendenti, fatturato di 150 milioni di euro, il 50% destinato all'export. Producono ogni anno 12 milioni di chili di burro, 18 milioni di chili di formaggio e 5 milioni di chili di carne. Abbiamo chiesto in primo luogo alla direttrice di Sterilgarda, al di là dei temi di questi giorni, quanto contino nell'industria agroalimentare le dimensioni, ma soprattutto quanto conti, diciamo, un approccio industriale, perché uno potrebbe dire che per produrre il latte, insomma, non è che serva tutto questo approccio industriale, e come l'approccio industriale riesce, se ci riesce, a preservare la qualità. Beh, sicuramente per approcciare sia il mercato italiano che il mercato estero diventa fondamentale per noi, ma anche per tutte le altre aziende, ad avere uno standard qualitativo industrializzato di altissimo livello. Le certificazioni ne fanno da padrone, perché per presentarti solo ad avere un contatto con queste grandissime realtà devi avere dei muscoli e devi avere delle armature che ti permettono di lottare in questo campo difficile che può essere il campo dell'import-export. Sicuramente l'industrializzazione nel tempo passato poteva attaccare il livello qualitativo, ma gli standard capitolati e gli standard qualitativi dei prodotti si sono alzati a tal punto che qualità e industrializzazione vanno di pari passo per poterti dare una possibilità di più, di poter vendere qualcosa in più all'estero, che è la qualità in questo momento che ti dà la possibilità di avere successo. Perché se uno può fare un prodotto sicuramente di massa, ma è un prodotto che deve essere seguito da uno standard qualitativo, che deve essere seguito dall'italianità che noi ci portiamo e ci dobbiamo portare nel mondo. Ecco, da questo punto di vista, dottoressa Sarzi, voi vi ritenete medi, piccoli, perché poi le dimensioni sono sempre un elemento relativo, con 350 milioni di euro di fatturato, e che difficoltà avete incontrato nel far passare il messaggio che la qualità si può accompagnare a una dimensione di scala industriale? Ma in questo senso a fare il fatturato sono bravi tutti, a fare una qualità di prodotto sono bravi in pochi, perché noi è da qualche anno che abbiamo cercato di fare dei prodotti che può essere, per esempio le faccio un esempio, il nostro latte microfiltrato, che è un latte diverso rispetto agli altri, di uno standard qualitativo superiore rispetto al latte normale che si può avere, perché comunque la guerra del prezzo del latte ti aveva portato a un punto di bivio: o continuare a produrre in un determinato modo o cercare di eccellere in un prodotto diverso. E in questo senso noi abbiamo puntato su questo prodotto, che è 100% italiano, che è microfiltrato, sicuramente è un prodotto industrializzato, però è un prodotto che è seguito da delle eccellenze qualitative italiane che ci permettono di portare questo prodotto al di fuori dall'Italia e quindi di poter crescere anche sia dal punto di vista italiano ma soprattutto dal punto di vista estero. Che quota export avete voi? Nel 25-30%. E i mercati sostanzialmente? I mercati, un mercato importantissimo per noi è il mercato della Cina, quindi dell'Oriente, abbiamo il mercato del Nord Africa, stiamo crescendo nel mercato dell'America, ma soprattutto con due prodotti fondamentali che sono questo latte microfiltrato che le dicevo prima, ma anche il mascarpone, che sono quelle eccellenze dove noi abbiamo questo know-how italiano che ci permette di poter portare qualcosa che gli altri non sanno fare. O perlomeno non sanno fare come noi. Per concludere con lei, la difficoltà più principale che avete incontrato soprattutto nei mercati meno conosciuti, penso a Cina ma anche al Nord Africa. Sicuramente devi avere degli standard, che uno pensa che al di fuori del mondo ci siano degli standard certificativi di più basso impatto rispetto ai nostri, invece per esempio abbiamo dovuto fare una certificazione per il mercato cinese che in questo momento in Italia ce l'abbiamo solo noi, quindi di avere e di adeguarsi a determinate legislazioni, e questa è stata la difficoltà di riuscire ad aumentare la nostra quota estero, perché comunque hanno delle culture diverse, hanno comunque anche delle ricette diverse e tu devi essere flessibile anche logisticamente per poter adeguare sempre di più la tua azienda con le richieste che vengono da mercati diversi all'Italia. Presidente Brazzale, quando uno produce, come ricordavamo prima, 12 milioni di chilogrammi di burro, 18 milioni di chili di formaggio e 5 milioni di chili di carne, vabbè, il riflesso nel dire tanta produzione ma di bassa qualità viene in automatico. Qual è la ricerca che voi fate per tenere assieme il binomio industria, quindi produzione su base industriale e qualità alimentare? Ma guardi, innanzitutto è un'assurdità pensare che ci sia una relazione inversa tra industria e qualità o fra quantità e qualità. Però poi andrebbe chiarita una cosa: noi siamo italiani, stiamo parlando della cosiddetta industria casearia italiana, ma c'è da chiarire che in realtà quella che noi chiamiamo industria casearia italiana utilizza dei processi produttivi per la stragrande maggioranza che sono artigianali. Il fatto perché viene definita industria? Perché c'è una moltiplicazione di questi processi artigianali in numero molto elevato. Questa moltiplicazione in numero molto elevato garantisce degli standard igienico-sanitari, di affidabilità, di rintracciabilità, di garanzia, di serietà, di nome, di tradizione, nettamente più alti di qualsiasi altra forma, di qualsiasi altra dimensione, più piccola. Le faccio un esempio: noi siamo produttori di grana, il formaggio grana è un prodotto che si può realizzare, ovviamente stiamo parlando di grana realizzato tradizionalmente, cioè quello che il 90% della produzione italiana, si realizza soltanto con delle cosiddetti doppi fondi, delle caldaie da 1000 litri l'uno. Per cui se lei vuole lavorare, come capita a noi per esempio nel caso del Gran Moravia, se lei vuole lavorare 5.000 ettolitri di latte al giorno, deve fare 500 di quelle pentole, ma l'operazione è sempre la stessa, non cambia, è un po' come fare 100 pastasciutte, è sempre con la stessa pentola, cioè è sempre artigianale l'operazione, per cui la cura, la sensibilità dell'uomo, la pregevolezza del prodotto non cambia assolutamente, quello che cambia è la più elevato standard di tutto ciò che sta attorno, che garantisce il consumatore, grazie a Dio, che il processo produttivo e il prodotto ha i più elevati standard di qualità. Mai come oggi gli italiani in generale nel mondo si è mangiato così bene e con così tanta sicurezza. Poi guardi, anche c'è un po' un paradosso: se un prodotto si sviluppa, se un'azienda da artigianale diventa industriale, parliamo solo in termini di moltiplicazione delle pentole che fa, significa che sta lavorando bene, per cui c'è una certa coincidenza tra aumento di dimensioni e qualità dell'impresa. Vabbè, non lo deve spiegare a noi, ma ha una certa retorica un po' ideologista che circola nel paese, e la vedo anche attraverso i messaggi. Mi dico una cosa, voi avete aperto dei 6 impianti produttivi che avete, ne avete aperti anche in Cina, Brasile e Repubblica Ceca. Come mai andate a produrre lì? In Cina si produce soltanto la parte dei prodotti freschi che non è possibile esportare dall'Italia o dalla Repubblica Ceca per il mercato locale, mentre in Repubblica Ceca abbiamo sviluppato un impianto da circa 15 anni in quanto abbiamo preso posizione in una regione straordinaria dove c'è una produzione di latte, un'agricoltura, una zootecnia di altissimo livello che ci permette di produrre i prodotti dei formaggi secondo la nostra tradizione, antica tradizione italiana, con del latte di altissima qualità, migliorando, evolvendo queste produzioni in termini di maggiore qualità e di maggiore competitività internazionale. E speriamo che appunto questo, alla luce anche di quanto la cronaca ci ha raccontato in questi minuti, ha ragione, vedo molti messaggi, presidente di Confagricoltura Mario Guidini, a dire che 500 milioni di euro possono sembrare tanta cosa, ma sono lo 0,1% del PIL agricolo, lo 0,4% del settore lattiero caseario, ma vedremo se vi saranno altri segnali. Io devo chiudere invece, quindi... l'appuntamento, intanto l'auguro di una buona serata, l'appuntamento è domani alle 17 in poi, sempre qui in diretta dal padiglione, dallo studio di Radio 24, al padiglione Cibus e Italia, siamo accanto al Giappone, vediamo se in questo modo faccio capire a tutti gli ascoltatori dove ci troviamo. Intanto buona serata. Radio 24, la passione si sente.